Platone mosse il capo lentamente, gli occhi torvi. Democrito ebbe la sfrontatezza di leggere un suo libro, pieno di impietà e di male, addirittura al teatro qui ad Atene, sotto lo sguardo adirato della nostra dea e della sua civetta, alla presenza di migliaia di ateniesi ingenui, indifesi. L'arroganza e la malizia di quest'uomo non conoscevano limiti, e la gente lo ascoltò e ne rimase stregata. L'irreparabile stava per accadere. Quell'empio stava gettando il seme della morte in mezzo a noi. Ma gli dei vennero in nostro soccorso, il figlio del male svanì e non se n'è più sentito parlare. Ho cercato di ringraziare gli dei facendo quel poco che potevo, raccogliendo e bruciando tutti i suoi libri. Ma quando sembrava che tutte le opere di questi due dannati fossero svanite, ecco spuntare da Fliunte un testo di Leucippo, l'opera primordiale, da cui sono stati abortiti gli atomi, il grande ordinamento. E dietro questo libro si è lanciata Siotea di Fliunte. Lentamente mosse gli occhi, gettandomi un'occhiata malevola. Sarei grato se a Siotea di Fliunte ci parlasse di tutto questo e degli atomi. E cosa ne pensa lei di questi semi? Se sono semi divini o infernali? Se gli atomi possono aiutare a spiegare e raggiungere l'immortalità e gli dèi, oppure se possono far crollare l'architettura divina del mondo celeste. E restò qualche momento con lo sguardo a mezz'aria, sospeso. Aristotele non batteva ciglio. L'astenia mi sferò una mano, la guardai. Aveva gli occhi tristi. Mi alzai in piedi, non avevo paura. Stava per finire tutto. Non ho letto il Grande Ordinamento, né altre opere di Leucippo, né di Democrito. Quel poco che so di questi due autori lo devo a due pagine che copiai a Fliunte, opera di Aristotele, in cui per sommi capi egli riassumeva la teoria atomica e il pensiero dei due filosofi. Aristotele raddrizzò la schiena, mi fissò con un'espressione di commiserazione sul volto che si trasformò in indulgente amarezza. I miei studi abbracciavano tutto lo scibile. Non esiste attività umana o divina che io non cerchi di capire e di spiegare. La sua voce era aspra come mai, non accettava repliche. Per questo ho ritenuto che anche due stolti pieni di fantasia come Leucippo e Democrito meritassero una mia riflessione scritta. Certamente non sprecherò una sola riga per Assiotea di Fliunte. E disse questo senza degnarmi d'uno sguardo. Tieni presente, comunque, che Democrito chiamava l'atomo idea. Forse era lo stesso concetto dell'idea platonica. Di sicuro, però, c'è solo l'uomo prodotto dalla pochezza intellettuale del presuntuoso Abderita, un uomo completamente senza speranza, che come patria non aveva alcuna città, ma la desolante vastità del mondo. Certo, i grandi uomini non si sentono soli al pensiero che ci troviamo immersi in mondi infiniti. Mentre quelli piccoli come voi si sentono sicuri soli in una città prigione come Atene, con le sue leggi spietate dettate da voi filosofi, per poter controllare tutto e tutti. Mi sentivo incapace di inventarmi nuove speranze, ma la mia rabbia mi offrì la forza di proseguire. Soltanto io da sola, Fliunte, dall'età di 7-8 anni, credo di aver copiato 4.000 o 5.000 fogli di Platone, che hanno tutti in comune una sola cosa. L'odio verso il mondo, verso questo mondo. Che possono sperare quelle due povere paginette su Leucippo e su Democrito, dinanzi alla ciclopica opera di Platone? Tu adesso mi dirai che la mia risposta non è attinente con la materia della lezione odierna, e invece credo proprio che lo sia. Pensa se oggi, al posto mio, ci fosse stato Democrito in persona. Avrebbe avuto i tuoi stessi capelli bianchi, Platone, la tua saggezza, l'amore per le proprie idee. Pensa che disputa filosofica avrebbe avuto luogo. E invece le cose non sono andate così. Il popolo di Atene, non molti anni fa, ha potuto ascoltare per pochi giorni solo lo Democrito, e chi era presente ricorda che furono momenti memorabili. Mai si erano sentiti concetti così rivoluzionari, mai nessun uomo aveva suscitato una passione simile, un così grande amore per la vita. Uno degli ascoltatori era quello che tu definisci pezzente, Diogene di Sinope. Ma subito dopo Democrito venne assalito, sicuramente ucciso, le sue opere fatte sparire e bruciate, quasi certamente dai tuoi fedelissimi. Questo è stato il programma da te sbandierato e da te rabbiosamente messo in atto. Lo fissai con tutta la durezza che poteva produrre il mio cuore, ma lui continuava a non degnarmi d'uno sguardo. Solo Aristotele mi sfiorava con la coda dell'occhio. Pur non essendo io filosofa, né studiosa, pur non avendo frequentato mai una scuola, se avessi letto un'opera di Democrito, oh sì, credo che avrei potuto risponderti a tono. Mi sarebbe bastato leggere Il grande ordinamento di Leucippo, l'opera prima dell'atomismo, opera che tu sicuramente hai posseduto e letto. Quindi, come puoi ben capire, io non posso risponderti in modo attinente, pur conoscendo tutte le tue opere. E tu non citi nemmeno una volta il nome di Democrito. Com'è possibile? Tu che ti definisci e ti fai chiamare maestro, il sommo filosofo, il divino Platone. Mi dispiace doverlo dire davanti ai tuoi allievi, ma sento che devo farlo a nome di coloro che non ci sono più, perché tu hai decretato non la loro morte, ma la cancellazione delle loro esistenze, del loro nome, delle loro idee. Tu non sei il più grande filosofo, Platone, ma solo il più potente. Cancelli il pensiero degli altri per far trionfare il tuo. Ma che gara è questa? Vinci perché corri da solo? Dove sono Leucippo, Democrito, Antifonte, Antistene, Diogene, Aristippo, tutti filosofi che guardano a questa terra? Questi filosofi si sono interessati della condizione umana. Hanno cercato di far capire che questo mondo ingiusto è una cosa abominevole. L'atomismo porterebbe sicuramente all'indifferenza verso i tuoi dèi. E questa sarebbe la giusta risposta degli uomini, vista la totale indifferenza degli dèi nei confronti dell'uomo. Platone, attraverso le tue leggi, tu ordini agli uomini di credere agli dèi, di credere nel dio della guerra Ares, che anche quando non ce ne sono, crea le guerre per il loro diletto di vedere gli uomini che si scannano. E durante i conflitti, il tuo dio non si schiera dalla parte di nessuno. Ebro di sangue, ama solo le guerre e lotta per farle scoppiare e farle durare il più a lungo possibile. E nelle tue leggi prevedi il peccato di impietà, la pena di morte per chi non crede agli dèi. Anche le foglie dell'ippocastano avevano cessato di stormire. Nella sala regnava un'atmosfera irreale. Platone, Aristotele e i miei compagni sembravano delle statue di marmo. Così, mentre tu passi la vita a sognare una città folle e impossibile, guardando lassù tra le nuvole di muffa del Monte Olimpo, non ti curi affatto della condizione degli schiavi o della donna. Come puoi approvare una legge scolpita sul marmo, la quale stabilisce che in tribunale la testimonianza di uno schiavo non è valida se non ottenuta con la tortura? Come puoi pensare che si nasca inferiori per natura? Nemmeno i tuoi dèi, così feroci e spietati, sarebbero capaci di creare un simile orrore. Hai una pallida idea delle condizioni di vita di uno schiavo nelle miniere? È un inferno. La sola speranza per lui è mettere fine al più presto a quella condizione disperata, morire velocemente. La realtà supera ogni immaginazione. Lì sotto non c'è luce, non c'è aria. Devi solo scavare, spezzare rocce a 12 ore al giorno. Non puoi stare in piedi, curvo, sdraiato, mangi a stento, fai i tuoi bisogni sotto il naso del tuo compagno. I guardiani ti frustano, ti fanno azzannare dai cani feroci. Se ti ribelli, ti evirano se sei uomo o ti mettono alla gogna se sei donna. In ogni caso, ti marchiano a fuoco. E Eubulo, Midia e i potenti di Atene stanno seguendo la proposta che fece Senofonte, sanare le finanze pubbliche comprando più schiavi possibili. Quelli delle miniere muoiono continuamente, molti si suicidano. Eubulo ha creato squadre che vanno salvando i bambini dalla spazzatura per allevarli e mandarli nelle miniere. Ormai il Laurio è pieno di povere creature di 6-7 anni che muoiono in pochi mesi. Atene vuole fare la concorrenza ai privati. Se ci riesce, metterà in piedi la più grande catena di schiavi del mondo, schiavi pubblici. Ogni creatura di 6-7 anni frutterà la città un obolo al giorno. E tu, maestro, Ti permetti di ignorare e di cancellare dalla storia gli unici uomini che hanno provato a gridare contro questo mondo feroce e spietato, gli unici che hanno provato a dare un messaggio di pace e di speranza per questa vita, che è l'unica, l'unica, Platone. Le 5.000 pagine che hai scritto sono solo finzione, paura, paura della morte. Mi aspettavo da un momento all'altro un gesto del maestro di Aristotele che ponessero fine al mio sfogo. E invece, stranamente, in quell'aula illuminata dalla luce del giorno e oltraggiata dalle figure di morte sedute attorno all'albero, nessuno mi fece cenno di tacere. Mentre a Fliunte copiavo le tue opere, sognavo questi momenti. Io che bussavo alla porta della tua accademia per chiederti com'era possibile che tu ritenessi la donna una creatura inferiore per natura. Quei momenti sono giunti, trascorsi e finiti. Non metterò mai più piede in questo posto, perché oltre quella siepe pulsa la vita, una vita terribile, un mondo ingiusto che peggiora di giorno in giorno, un mondo senza pietà per le categorie sottomesse, le donne e gli schiavi, la maggior parte del popolo. Non riesco a immaginare come possa una persona come te, Platone, che vive solo per la vita spirituale, che parla e scrive di comportamenti nobili, di amore per la famiglia, di rispetto per il prossimo, come possa accettare che ad Atene 300 uomini posseggano tutta la ricchezza della città e che 300.000 persone siano schiave di queste 300. Tu mi dirai, Platone, che io ho deviato dal tema. Che era lo studio dell'anima. Non mi interessa la tua anima. Se esiste, deve essere una cosa orribile a vedersi. Se questa essenza destinata all'immortalità può far sì che tu permetta, attraverso l'avallo delle tue leggi, che un bambino di 5 anni venga raccolto dalla spazzatura e sbattuto in fondo a una buca infernale di una miniera e che dopo pochi giorni crepi là sotto, e che il suo corpo venga abbandonato, e mentre imputridisce un altro bambino povero prenda il suo posto. Tu, Platone, sei uno di quei 300 uomini senza anima. Hai cancellato dalla storia Antistene, il cinico, perché osava dire che l'uomo e la donna hanno le stesse virtù. E quello che tu definisci pezzente, Diogene, è ancora più rivoluzionario del suo maestro. Parla e lotta per un mondo dove tutto appartenga a tutti, dove l'uomo metta in comunione con gli altri tutto. Hai cancellato dalla storia Antifonte il sofista, che contrariamente a te e al tuo allievo Aristotele, difendeva la tesi dell'uguaglianza degli uomini per natura. Antifonte aveva avuto il coraggio di gettare il seme per la quadratura del cerchio, approdando al concetto di infinito. Ma subito Aristotele ha cancellato quel concetto, bandendo dal ragionamento matematico l'infinito. Ecco la tua nefasta influenza sui tuoi allievi, Platone. Vuoi che Eudosso sistemi il cielo, ma non gli hai permesso di immaginare nulla che non sia una sfera. Vuoi che Aristotele non pronunci nemmeno la parola infinito? Hai fatto mettere le metope all'ingresso dell'Accademia. Il trionfo dello spirito sulla materia, dell'organizzazione sulla confusione, dell'ordine sul disordine. Sono solo chiacchiere, maestro. La vita è un insieme di atti. Io sono stata venduta da mio padre a mio marito e mio marito, la notte delle nozze, mi ha violentata ubriaco sopra un lenzuolo bianco che ha appeso alla porta di casa col mio sangue, per poter mostrare alla gente di Fliunte che io ero vergine. E poi se n'è andato nell'andron accanto a giacere e fare l'amore per tutta la notte col suo bello. Tu, Platone, e tu, Aristotele, eravate in quella stanza. Mio marito si comportava così perché voi, le massime autorità di questo paese, avete scritto che la donna è inferiore all'uomo per natura, anzi, che la donna è uno scarto della natura. Quella notte, tutte le notti che sono seguite, mio marito si è comportato come la più feroce e spietata delle bestie. Perché voi due gli avete insegnato che era giusto comportarsi così? Se al posto vostro ci fossero stati Antifonte, Antistene, Diogene, Aristippo, Leucippo e Democrito, il mondo sarebbe sicuramente diverso. Mentre uscivo, gettai per l'ultima volta un'occhiata a Platone. Era rimasto immobile, lo sguardo malevolo rivolto al suo grande discepolo che non aveva voluto replicare, nonostante il suo invito a farlo. Aristotele era rimasto fermo, immobile. Incrociai per un granello di clessidra il suo sguardo, un'occhiata oscura, nel cui fondo, tuttavia, si intravedeva un velo strano, sconosciuto, che non riuscivo a decifrare. L'astenia mi pregava, mi scongiurava di non lasciarla sola. Eravamo uscite dall'aula di filosofia, ci stavamo dirigendo verso quella di astronomia, dove mi attendeva Eudosso. La mia amica mi camminava accanto, cercava i miei occhi, scuoteva il bel capo. L'astenia, devo partire per un lungo viaggio di studi e di ricerca. Non ti sarò mai abbastanza riconoscente per quello che hai fatto per me. Ma lei era veramente inconsolabile, disperata. E allora vengo anch'io, portami con te, ti prego. Ti sarò utile, ti aiuterò, io qui non ci resto. Un nervoso tormentio delle labbra, lo sguardo incupito dalla malinconia. Non dipende da me, amica mia. Sentiamo che ne dice Eudosso, è lui il capo della spedizione. E così dicendo entrammo nell'aula di astronomia. Non riuscivo a capire perché il mio amico si fosse sdraiato a pancia in giù in quella posizione. L'astenia urlò un grido straziante. Si gettò in avanti, in ginocchio, cercò di scuotere Eudosso, riuscì a muoverlo, a toglierlo da quella posizione. E il volto, il collo e il petto, imbrattati di sangue, mostrarono tutto l'orrore della morte. L'astenia continuava a gridare: Eudosso, Eudosso, l'unico uomo a cui ho voluto bene. No, non può essere. Una scena simile, Mammantino, la testa quasi decapitata, il capo di Eudosso fracassato, la fronte, ma non solo la fronte, tutto, il volto era sfigurato, devastato dalla violenza dei colpi. Lo avevano ucciso. Mi sentii male, caddi in ginocchio. Sul volto del mio povero amico non era rimasta alcuna espressione di dolore, perché il suo volto non c'era più. Il terriccio sotto di lui era inzuppato di sangue. L'astenia piangeva e gridava, disperata. Attraverso le lacrime guardavo la scena come se mi trovassi al teatro di Dioniso. Forse non era realtà, forse era una nuova tragedia teatrale e fissavo le statuine nella parte superiore della mappa. Due mani nervose mi afferrarono per le braccia, mi sollevarono. Mi girai, era Eraclide, gli occhi spauriti, la faccia terrea. Dietro di lui tutti gli altri, compresi Platone e Aristotele, tutti in silenzio. Si sentiva solo il pianto irrefrenabile dell'astenia. Fu come se la voce lamentevole di Eraclide mi giungesse dal mondo di Morfeo. Cos'è successo a Sotea? C'era qualcuno qui, dimmi. Pseosippo si avvicinò all'astenia. La strinse fra le braccia, cercando di calmarla, facendo domande anche a lei. Gli occhi spiritati di Eraclide continuarono a interrogarmi. Piangevo, mi mordevo le labbra. Lo abbiamo trovato disteso, a faccia in giù, il capo immerso nel sangue. Pseosippo, senza lasciare l'astenia, si era girato verso di me. Possibile che non siate riusciti a vedere nessuno? E girava attorno i suoi occhi smarriti. Poi si avvicinò allo zio, parlando a bassa voce, ma il tono sepolcrale fu chiarissimo. È chiaro che non è una disgrazia. Bisognerebbe chiamare il Polemarco. Vado all'entrata a parlare con il Micerato. Faccio radunare tutti gli schiavi. Respirò affannosamente. Con una buona dose di tortura vedrai che riusciremo a trovare subito il colpevole. Stai tranquillo. Gli occhi del maestro scrutavano la scena e poi fissarono il nipote, vigili. La sua voce fu un soffio secco. Qua dentro non entra nessun Arconte o Polemarco. Anche Eracli dell'Astenia avevano sentito, si erano girati verso Platone e Aristotele, facce stravolte, sguardi timorosi. Mi separai da Eraclide, cercai di imprimere nella mia mente ogni dettaglio di quella scena. Eudosso era entusiasta. Aveva accennato a Aracio, sicuramente aveva trovato un'altra statuetta, la linea retta che sperava finisse a Cartagine. Mi mossi verso sinistra, passai oltre il corpo esanime del mio povero amico, sfiorai Cartagine, guardai bene. Non c'era alcun segno nel terriccio. Poi feci il giro verso nord, proseguendo per la parte alta. Le sei statuette, Termon, di Saron, 7. La statuina sulla località di Maronea era nuova, infatti era di dimensioni doppie delle altre, lo stesso volto, la stessa figura. Davanti alla statuina, terriccio smosso, profondo, e proprio alla fine della mappa, granelli sabbiosi tutt'attorno. La statuetta però non era fissata regolarmente nel terriccio, col volto rivolto verso il basso della mappa, guardava in alto e aveva una posizione sbilenca. Mi avvicinai e mi accorsi dei grumi di sangue dei capelli. Presi in mano la statuetta, pesava incredibilmente. Tremavo, tornai indietro, la mostrai a Eracli dell'Astenia. L'hanno uccisa con questa. Ci sono tracce di sangue fresco e di capelli. Capelli e barba. Prima, questa statuina non c'era. Eudosso stava cercando una linea ideale che lo portasse a una mappa delle miniere d'oro. La statuetta è stata collocata a Maronea. Il dolore mi straziava il cuore. Povero Eudosso. Ignorava che Maronea è un'antica località di miniere d'oro già esaurite e forse lo ignorava anche l'assassino, povero grande amico mio, ucciso senza un motivo. E feci per infilarmi la statuetta nella borsa che portavo a tracolla. Ma la voce soffocata di Platone mi ingiunse di non farlo. Tutto quello che si trova nell'Accademia è di mia proprietà. Rimetti la statuina al suo posto e sparisci. Se deciderò di chiamare un magistrato, tu non salirai la collina dell'Areopago né sarai interrogata. Sei troppo piccola di statura per aver potuto ridurre in quel modo la faccia di Eudosso. Zio Sippo mi fissava con un'espressione di sofferenza e di vergogna sul volto, ma allungò le braccia, prese dalle mie mani la statuina insanguinata, fece il giro della mappa, la depose al di là di Abdera, verso Levante, dove c'era la località di Maronea. Poi tornò verso di noi, cercando di poggiare le mani sulle spalle di Lastenia, ma la mia amica scattò come se l'avessero schiaffeggiata. Si allontanò da lui, aggrappandosi a me. Gettai un'occhiata al gruppo di uomini e ai loro sguardi ostili e spietati. Lastenia mi attanagliò una mano. Eraclide, che pure tremava visibilmente, disse che ci teneva ad accompagnarci. Il suo amico Eudosso l'avrebbe voluto. Rassicurò il maestro che sarebbe tornato in tempo per assistere alla purificazione dell'Accademia, che aspettassero a scannare il maiale. Avrebbe acquistato lui nell'agorà foglie d'alloro e di aglio fresco. Platone mi guardava, osservava la mappa, il corpo di Eudosso, tornava a fissarmi. Tutti erano in attesa di un suo gesto. Solo dopo un'attesa che mi parve interminabile, il maestro si congedò bruscamente, senza parlare, seguito da Aristotele e dagli altri. Non da Eraclide, però. Proprio mentre ci avviavamo sulla porta, apparve Pleurone, volto terreo, tremava come una foglia. Assiotea, vengo con voi. Eraclide, direi tu a Pseusippo che gli manderò le 300 dracme con cui mi aveva comprato. La sua voce era strangolata, ma gli occhi rilucevano di coraggio. Prima di avviarci, mi avvicinai al cadavere di Eudosso. Staccai la piccola fibbia di cuoio con cui teneva legati i lunghi capelli dietro la nuca. La porsi alla Stenia, che prese a piangere silenziosamente. Fece una carezza sui capelli del povero timido studioso. Il dolore mi stava straziando. Raggiunsi la mia amica e assieme a Eraclide e Pleurone, ci avviamo verso l'uscita. I filosofi si erano soffermati a scrutarci davanti all'aula in cui svettava l'ippocastano. Incontrai il cipiglio stile di tutti quegli occhi. Pleurone pose un braccio sopra una spalla di Lastenia e si incamminarono, precedendo me e Eraclide di qualche passo. Il cielo si era riempito di nuvole, ma erano ammassi lievi che correvano leggeri. Ringraziai lo studioso per avermi accompagnata. Mi fissò con occhi che avevano perso l'espressione torva. Adesso erano spauriti. Povero amico mio, l'uomo più gentile e geniale che abbia conosciuto. Mi diceva sempre che lui rimaneva qui all'Accademia solo perché c'ero io con cui condividere i suoi studi, le sue ricerche. Cercava i miei occhi con uno sguardo supplichevole e la voce intrisa di disperazione. Tu stai per partire, vero? Non andare a Siotea. Potrebbe essere molto pericoloso. Non si tratta di una mappa che può condurre a delle maledette miniere d'oro o d'argento, anche se solo questo renderebbe il vostro viaggio irto di pericoli. In gioco c'è molto di più. Hanno ucciso tua madre Antinoe, la tua amica Marpessa, forse anche tuo padre e per ultimo Eudosso. Ormai è chiaro, colui che tu ed Eudosso chiamate il guardiano è uno dell'Accademia, un guardiano spietato che uccide per tener celato un segreto, probabilmente il segreto nascosto nel grande ordinamento. A questo punto si interruppe, come ad ascoltare i rumori del bosco lungo la strada che stavano percorrendo. A Siotea ero il più intimo amico di Eudosso, mi raccontava tutto. Facevamo congetture, capisci? Sapevo perfettamente che il divulgatore era lui e che voi due vi eravate salvati perché non avevate scoperto il segreto che conteneva quel maledetto libro. E scuoteva il capo, inconsolabile. Poi lui si è messo a giocare alla caccia delle statuette. Non avrei mai pensato che avessero a che fare con quel segreto. Ancora distrutto dal dolore, avevo timore di aprirmi a lui. L'astenia si girò, il volto ancora rigato di lacrime. Pleurone le teneva la mano. Povero amico mio, la voce di Eraclide era accorata. Era così felice per la storia d'amore che aveva avuto con l'astenia. Una sola notte, diceva, ma una notte che valeva una vita intera. Eraclide, può essere stato uno venuto da fuori? Assolutamente no. Prima di tutto, perché un estraneo dovrebbe sfuggire ai cani molossi che fanno la guardia attorno alla siepe. E poi, perché Eudosso lo conosceva, si fidava. L'assassino lo ha massacrato sulla faccia colpendolo all'improvviso. Il povero Eudosso non ha nemmeno provato a difendersi. Eppure, anche se un po' magro, era pur sempre un pezzo d'uomo. No, Siotea, è stato uno schiavo comandato da uno di quei maledetti. Oppure direttamente uno di quei maledetti, aggiunsi io. Non riuscivo a dimenticare il suo volto felice, la sua gioia che esplodeva alla luna del Pireo nella notte del Tiaso di Efesto. Eraclide, chiamerei tu, magistrato. Mi fissò terrorizzato. Non posso, Siotea, credimi. Comunque sarebbe inutile. Vedi, stando all'interno, potrò indagare con discrezione se riuscirò a capire, a sapere. Andrò di corsa all'areopago. Eravamo giunti in prossimità della porta di Dipilo. Torna pure indietro, Eraclide, e stai attento, non ti mettere a fare l'eroe adesso. Lo abbracciai, tentando di vincere la commozione che mi assaliva. Si girò e riprese il cammino di ritorno, accennando a un mesto saluto con la mano destra alzata. Raggiungemmo l'agorà all'ora della pletora. Passammo per il portico Pocile, incontrammo Diogene, gli raccontammo l'accaduto. Stravolto dal dolore, ci seguì da Ufione, informandoci che aveva visto Demos e Unai recarsi lì. Quando entrammo, capirono subito che era successo qualcosa di grave. Unai si strinse a me. Demos mi sfiorò la fronte con le labbra. Siamo all'epilogo, a Siotea. Dobbiamo partire quanto prima. Il povero Eudosso è stato ucciso a causa dell'ultima statuetta, ma un pensiero parve folgorarlo. Racio, il venditore ambulante di papiri, è lui che gli ha portato la statuina. Andiamo a cercarlo. E mi prese per mano, dicendo agli altri di aspettarci là nella libreria. Diogene però consigliò di chiamare anche Focione, Iperide e Coridemo. Uscimmo. Diogene si avviò verso lo Strategeion. Ci demmo appuntamento al calar del sole. Con l'astenia e Pleurone ci dividemmo la perlustrazione della piazza, ma oltre me nessuno conosceva Racio. Racio di Cirene è il venditore ambulante di papiri dell'Agorà. C'è solo lui, non ce ne sono altri. È un uomo di mezza età, con il capo sempre coperto da un cappello a forma di cono. Vende rotoli di papiro, calendari, mappe dei postriboli e grida così forte che riesce a farsi sentire ovunque. L'astenia la vedeva ancora distrutta dal dolore. cercò i miei occhi e quelli di Demos. Ovunque andiate, portatemi con voi. Voglio fare anch'io qualcosa per Eudosso. Demos mi lanciò un'occhiata indagatrice, capì? D'accordo, Elastenia, poi ti racconteremo tutto. Pleurone potrà metterti al corrente della missione. Tieni presente che non è un viaggio di piacere, ma un'operazione estremamente pericolosa. La sua voce era dura. Allora, voi due cercate sino la via sacra, io e Assiotea da questa parte, fino al tempio di Efesto. Una clessidra, non di più. Se lo trovate, portatelo qui da Ofione, promettendogli una grossa ricompensa, senza accennargli alla fine che ha fatto Eudosso. L'Astenia mi guardò con gratitudine e s'avviò verso la casa delle fontane assieme al Pleurone. Unai faceva sempre in modo che io stessi al centro, tra lui e Demos. Percepiva la gravità della situazione e non parlava mai. Capiva tutto dalla sola espressione dei nostri volti. Setacciammo mezza gorà, ci spingemmo oltre, incontrammo l'Astenia e Pleurone sulla via sacra. Il cielo stava diventando nero. Nessuno aveva visto Raccio da oltre un mese. Stavamo tornando tutti da Ofione quando Difilo ci corse incontro. Gli raccontammo di Eudosso, strinse i denti, chiedemmo anche lui di Raccio. Aggrottò la cicatrice dell'occhio mancante. Gli parlai un mese fa, mi disse che sarebbe stato lontano per parecchio tempo, ma forse si potrebbe provare all'Agorà del Pireo, dove abita. Allora Eudosso deve averlo incontrato lì, esclamai emozionata. Demos chiese a Difilo come e dove poteva trovare un cavallo, fissando con apprensione il cielo che andava gonfiandosi di pioggia. Solo Focione e Coridemo potrebbero metterne una a tua disposizione. Demos, Assiotea, sotto i portici corrono le voci. Dalla penisola calcidica arrivano cattive notizie. Credo che dovremo accelerare i tempi. Sul cavallo di Coridemo correvamo nelle lunghe mura verso il Pireo. Pioveva dirotto, montavamo a pelo senza nemmeno una semplice bardatura. Demos aveva voluto che mi mettessi davanti a lui, mi teneva stretta, mi soffocava col suo abbraccio. Ad un tratto rallentò la corsa della cavalla. Accanto alle mura, nel luogo dei supplizi dove avvenivano le esecuzioni capitali sotto lo sguardo di marmo della padrona dell'ordine e della legge, la dea Temi, un gruppo di arcieri stava giustiziando con la ruota un ragazzo calvo. Erano solo loro, arcieri e condannato sotto la pioggia. Nascosi il viso nel collo di Demos, mentre un braccio del ragazzo veniva strappato dal corpo. Tremavo come una foglia. Quello era un mondo feroce. Mai mi sarei abituata a vedere uccidere un uomo in nome della giustizia, mai. Tuonava nel cielo, si aprivano squarci di fuoco. Quando giungemmo al cantaro, continuava a piovere, ma con meno violenza, e i tuoni e i fulmini erano cessati. Lasciammo l'animale ad Aram, alla tana di Teopompo, poi ci recammo a piazza Ippodamo. Ci dissero che proprio la sera del giorno prima era giunta una nave dall'Egitto. Chiedemmo in giro e un venditore ambulante di spezie che conosceva benissimo Racio ci disse che non solo lo aveva visto, ma che era stato a casa sua a prendere delle spezie rare che Racio aveva portato dall'Africa. Il venditore, Epilico si chiamava, capì che si trattava di una faccenda seria. Chiuse il carrettino di legno, lo lasciò presso una bottega amica e ci disse di seguirlo. Dovemmo percorrere un bel po' di strada, la pioggia divenne sottile. Raggiungemmo la casa di Racio, situata quasi ai piedi della collina di Monichia, in via Erope, accanto al famoso postribolo dello Stato. Le ragazze schiave stavano quasi tutte nude sulla porta del locale, invitando gli uomini e i marinai che passavano. Povere donne! I cenni e i richiami che rivolgevano ai possibili clienti suonavano così falsi e stanchi che spesso gli uomini fuggivano spaventati, forse non a causa del modesto obolo che le sventurate chiedevano come compenso. Così, le schiave prostitute restavano appoggiate alla loro nudità in quelle pose dolenti, gli occhi vitrei, gli sguardi incupiti dai rifiuti, che però subito si riaccendevano di nebbia e di speranza all'avvicinarsi di un altro possibile cliente. La casa di Racio era situata in un grosso edificio di 3 piani. Ci inerpicammo per la scala stretta e buia. Abitava al secondo piano. Epilico provò a bussare più volte, chiamò Racio ad alta voce, ma senza alcun risultato. Provò a spingere, ma la porta non s'apriva. Demos, con una spinta, riuscì a schiuderla quel tanto che ci permise di entrare. Dietro la porta, in una pozza di sangue, il corpo senza vita di Racio, con un ghigno sul volto, come di stupore. Nella stanza c'era una luce fioca che filtrava dalla finestra. Epilico cominciò a pregare gli dèi, fissandoci spaventato. Demos cercò di stringermi fra le braccia, poi mi chiese di guardare in giro mentre lui spostava il cadavere. Mi rendevo conto che il cerchio si stava stringendo attorno a me. Mi misero a visitare la casa mentre i pensieri si accavallavano alla paura. Trovai una cassa piena di pergamene e fogli di papiro, mappe di postriboli, calendari, proverbi, ma nulla che potesse esserci d'aiuto. Assiutè, andiamo via. L'hanno ucciso perché non rivelasse la provenienza della statuina. Qui non troveremo niente. Pregammo il vecchio di avvertire uno degli astinomi del Pireo e lo lasciammo là, inginocchiato, spaventato. Tornammo indietro, dirigendoci verso la tana di Teopompo. Hanno messo a tacere Odosso perché lui doveva aver intuito il segreto della mappa delle miniere d'oro e hanno fatto fare la stessa fine a Racio per paura che potesse aiutare anche noi. La voce di Demos era rabbiosa. Proviamo a entrare in casa di Eudosso, non si sa mai, potrebbero aver lasciato qualche indizio. Aram, il proprietario della taverna, conosce sicuramente dove abita. Affrettavo anch'io il passo, il cuore in gola. Demos, se scopriremo il segreto, moriremo. Rallentò il passo. Il guardiano è uno dell'Accademia. Speriamo solo che non sia Aristotele. Lui ha la possibilità di parlare col Macedone, potrebbe ostacolare la nostra missione. In quel momento eravamo quasi davanti alla loggia della Sartiame del Cantaro, all'inizio delle logge delle navi. Il cielo stava schiudendosi e il sole premeva per tornare a illuminare il Pireo. Proprio là, dove transitavamo noi, scorgemmo all'interno della prima loggia due navi addobbate a festa, due triremi, la Paralo e l'Ammono. Erano adornate con statue di dei e simboli religiosi. La poppa delle due triremi dipinte d'oro prese a luccicare sotto i nuovi raggi di sole e la vernice si imbeveva dell'oro dell'astro della vita. Un nugolo di gabbiani curiosava nella loggia stridendo. Demos, guarda, devono essere le due navi sacre, quelle che usano per portare il tesoro di Delfi. Forse Coridemo sarà il trierarca di una di queste due. Ci eravamo fermati a guardare, stupiti, le due splendide imbarcazioni. Il mio compagno era rimasto sbalordito. Sono perfette, due velocissime navi da guerra, vestite di pace. Come invaso da un nuovo vigore, riprese a camminare con passo spedito e io feci altrettanto. Poco dopo, Aram ci accompagnò a casa di Odosso. Aveva persino la chiave. Nella stanza piena di disordine c'erano solo pergamene e fogli di papiro, dappertutto, sotto il letto, nelle cassapanche poggiate alle pareti, sopra le sedie. Mi misi ad esaminarli, aiutato da Demos. Cercammo soprattutto mappe geografiche. Trovammo parecchie variazioni delle ecumene di Erodoto, la concezione del mondo dai tempi omerici, mappe sulla sfericità della Terra. C'era di tutto, fino alla dimora dell'Ade e addirittura quella del Tartaro, il regno dell'eterna oscurità. Trovai la mappa del viaggio compiuto dai marinai fenici per ordine del faraone Neco, quella di Anassimandro di Mileto e quella di Ecateo di Mileto. La mappa del mondo di forma quadrangolare di Anassimene, ma di mappe aggiornate dell'Ellade nemmeno l'ombra. Poi c'erano trattati di matematica e astronomia, ne prelevai tre i più ordinati. Li mettemmo in una grossa borsa, dicendo ad Aram che nei prossimi giorni sarebbe venuto Fione a sistemare tutto. Poco dopo, mentre il tramonto calava inesorabilmente, riprendiamo a galoppare fra le lunghe mura per tornare ad Atene. Quando raggiungemmo i papiri, c'erano tutti, tranne l'Astenia, Pleurone e Unai, che ci aspettavano a casa di Ofione. C'erano anche Diogene, Iperide, Difilo e Peribea. Ofione chiuse la porta della libreria, ci sistemammo attorno al tavolo. Il mio compagno raccontò le ultime novità. Le storie sembravano seguire cammini completamente diversi. La storia delle statuine, quella dell'abolizione della schiavitù e quella della guerra che Filippo il Macedone stava scatenando contro l'Attica. Io invece credo che sia una sola storia. Demo si sforzava di non far percepire l'emozione della sua voce. Perdonatemi se sono stato il primo a prendere la parola, ma credo di essermi fatto un'idea abbastanza chiara, almeno in linea generale. Dunque, esaminiamo la nostra missione nell'Egeo del Nord. Raggiungeremo Abdera alla caccia di libri rivoluzionari, ma anche di altri pezzetti di quel mosaico che il nostro povero Eudosso stava mettendo assieme e che forse questa mattina aveva completato col ritrovamento dell'ultima statuina. Ci Ma ad Abdera non ci sarà Eudosso. Credo che la persona più adatta a sostituirlo sia Assiotea, perché è l'unica che conosce ogni dettaglio di questa vicenda, anzi, è come se tutto ruotasse attorno a lei e mi fissò con quegli occhi impenetrabili solo agli altri. L'altra faccia della missione è quella militare, pura e semplice. Al Pireo abbiamo visto attraccare i due triremi sacre, la Paralo e l'Ammono. Coridemo, saranno le nostre navi? Lo stratega gigante ci passò tutti in rassegna con i suoi occhi apparentemente feroci. Sono le nostre navi. Io e Focione siamo riusciti a convincere il Polemarco a consegnarcele senza il permesso del Consiglio a causa dell'assoluta segretezza dell'azione. Se abbiamo una speranza di conquistare le miniere d'oro del Pangeo, è solo sfruttando il fattore sorpresa. Perciò partiremo dal Pireo con le due triremi sacre armate a metà. Raggiungeremo Abidone nell'Elesponto, preleveremo i miei migliori 200 uomini e così avremo le due triremi complete. Ci imbarcheremo di nuovo, ci fermeremo 2 o 3 giorni ad Abdera e poi, per tutti i demoni e i sicofanti dell'Olimpo, punteremo al Pangeo. I dettagli dell'assalto alla miniera li esamineremo dopo. Se riusciremo nell'impresa, la mia flotta di Abido verrà a presidiare il mare per impedire che quella del Macedone possa tornare a impadronirsene. Si accarezzò con una mano la fronte piena di cicatrici, cedendo la parola a Fucione. Mi trovo d'accordo sull'uso della cerimonia religiosa per assaltare il Pangeo. So che non è da uomini d'onore, ma il Macedone lo merita. Ultimamente ci ha fatto attaccare persino dai pirati, che in pratica rappresentano una parte della sua flotta. Sono crollate altre città della penisola calcidica. Ci è giunta proprio oggi la notizia che è caduta anche Stagira, con la sua piccola miniera d'oro. Resiste solo Olinto. Come sapete bene, se cade è la fine. Nei suoi occhi brillava un'incrollabile tenacia. Io resto qui, a cercare di tener pronto un contingente di opliti, con la speranza che l'assemblea si decida. Fu la volta di Peride. Dal canto mio riunirò l'assemblea in seduta straordinaria, non appena giungerà la notizia del successo dell'operazione alla Casa del Cielo. Se la schiavitù verrà abolita, tutti i cittadini si divideranno l'oro del Pangeo. Se questo non accadrà, raggiungerò Demos e i suoi al Pangeo e con loro comincerò a pagare il riscatto degli schiavi dell'Aurio e poi di tutte le miniere di tutte le terre. Gli occhi verdi sfavillavano senza esitazione. Coridemo chiese a Demos chi erano e dove si trovavano i 200 uomini di cui disponeva. Il mio compagno, prima di rispondere, gettò un'occhiata a Iperide come a chiedere il suo consenso. Un centinaio sono gli aderenti al chiasso dei copisti, organizzato da Iperide, di cui fanno parte i nostri amici Difilo e Peribea. Gli altri 100 sono schiavi che vivono quasi tutti al Pireo, già pronti da anni a impadronirsi di una nave per andare a liberare i compagni dell'Aurio. Hanno accettato questo cambio di rotta solo a patto che dopo il Pangeo libereremo l'Aurio. Rivolgiamo l'attenzione a Diogene Ofione. Il filosofo si decise a parlare. La storia non si scrive con la fortuna non esiste, esiste il coraggio. E voi, amici miei, ne avete da vendere. Per Dio se ne avete, ma il vostro coraggio non lo lasciate in preda alla passione, ma alla ragione. Pertanto, doppiamente bravi. E poi, che bello sentirvi dire: infischiamocene degli dèi, andiamo a liberare dei bambini di 5-6 anni tenuti schiavi e fatti crepare nelle miniere. Alle mie età non servo in battaglia, sarei solo di peso, ma qui ad Atene sì che posso essere utile. Platone dovrà pur crepare mentre io sopravviverò. E tu, Assiotea, trova i libri di Leucippo e Democrito, portameli. Io e te apriremo la scuola degli atomisti in Atene. I suoi occhi ardevano di passione. E quella scuola la intitoleremo al nostro povero Eudosso, che ebbe la sfortuna di farsi leccare l'abito dal toro Apis e che ha avuto, come purtroppo predissero quei maledetti sacerdoti egiziani, una vita illustre, ma breve.